precisamente tu che come le bici stai sempre in mezzo ed io ti suono ma no, tu sembra ti piaccia restare al centro ed ogni volta che dico smetto non è mai l'ultima volta. È così strano che non ci riesco a dire no, non mi importa. E avrai le tue ragioni per volermi solo male. Sì, perché il tempo che ho lasciato è solo tempo da buttare. Ma i ricordi che emozionano non si fanno cancellare. E se cascasse il mondo e se cascasse tutto quanto, io senza te non ci rimango, senza di te non ci riesco. E siamo qui, così lontani e sempre qui, ad imbrogliarci in testa e vivere, per vivere, rivivere. Ma guarda quanti giri di parole abbiamo fatto per rivederci ancora. E dimentica e poi lascia tutto indietro. Un ciao, ciao, come se fosse domenica e non pensi a niente. E anche io le mie ragioni per voler dimenticare. Ma poi ti voglio, voglio, voglio, voglio navigare. Perché ti cerco, ti sento e ti penso. Sarà banale ma è tutto più bello. E se cascasse il mondo e se cascasse tutto quanto, io senza te non ci rimango, senza di te non ci riesco. E siamo qui, così lontani e sempre qui, ad imbrogliarci in testa e vivere, per vivere, rivivere. Ma guarda quanti giri di parole abbiamo fatto per rivederci ancora. E se cascasse il mondo e se cascasse tutto quanto, io senza te non ci rimango, senza di te non ci riesco. E siamo qui, così lontani e sempre qui, ad imbrogliarci in testa e vivere, per vivere, rivivere. Ma guarda quanti giri di parole abbiamo fatto per rivederci ancora.